Rimaliena, nati dalla gran cometa. Con rime grasse quando ne vogliamo, rime a dieta. O ritocchini agli zigomi, dita sugli stimoli. L'esplosione senza fine, altro che mini ciccioli. Buona vita natural che poi durante la peggiori. Mio signore genetista che pasticci con gli umori. Tanta scena se gli muori o sopravvivi a sento, che altrimenti li rovini un altro esperimento. Metti caso che per caso ci sfaso da brillo. Sull'agenda dello sbirro ci sta il mio indirizzo. Sulla carta da parati col cervello schizzo. So qualcosa di nascosto, mi conviene dirlo. Nulla teme l'uomo giusto, non lo teme invece. Mi sa tanto che appartengo alla seconda specie. Quella fuori dal recinto, quella con la rima aliena. Quella con la fotta fiotti e la barella sulla schiena. Rima aliena, aliena rima, ma aliena prima. Responsabile biloculo in colloquio stamattina. Come ti si pone un doppio trave nell'addome? Come fai di nome? Cosa fai domani pomeriggio? Rima aliena, aliena rima, ma aliena prima. Responsabile biloculo in colloquio stamattina. Come ti si pone un doppio trave nell'addome? Come fai di nome? Cosa fai domani pomeriggio? Troia! Io ritorno come Spawn dalle fiamme dell'inferno. Altro che mare d'inverno, esplode il mio quaderno. Tritola il governo, implode il mio interno. All'esterno mi alterno, ti sei stinto in eterno. Su Genova alterno, la crisi in odierno. La sfiga bussa sempre allo stesso interno. Per questo gli ho lasciato il portone sempre aperto. Parto dal mio porto, porto dal mio parto. Cuccio rime a mo' di sarto. Hip hop dipendente, residente a quarto. Non è vero perché vivo all'aperto. Ho un futuro incerto, campo alla giornata e prima poi avrò un infarto. Forse non lo so e sono già morto. Voi avete ragione, io sicuramente torto. Lazzaro è risorto, ma dopo tre giorni camminava tutto storto. Rima aliena, aliena rima, ma aliena prima. Responsabile biloculo in colloquio stamattina. Come ti si pone un doppio trave nell'addome? Come fai di nome? Cosa fai domani pomeriggio? Rima aliena, aliena rima, ma aliena prima. Responsabile biloculo in colloquio stamattina. Come ti si pone un doppio trave nell'addome? Come fai di nome? Cosa fai domani pomeriggio? Troia!